Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. In Italia si sta male, in Italia si sta male, in Italia si sta male, si sta bene, si sta bene, si sta meglio anziché no. Se lei mi domanda come sta l'Italia oggi, l'Italia sta meglio di un anno fa, ma non sta ancora bene. È come se fosse guarita, è come quando da piccoli la mamma ci diceva sì, però adesso la febbre ti è passata, però occhio. In più. Oppure no, stai a letto no, ma mettiti il cappello quando esci. Da quando nasce a quando muore, se sei brutto, se sei bello, se sei ricco oppure no. In Italia non ci sto, in Italia non ci sto. Prima casa. Finalmente si elimina davvero per sempre l'IMU e la TASI. L'ultima volta che io ho pagato, mi sono guardato, mi sono preparato prima di venire qua, 433 euro. Però stavolta nessuno potrà più aumentare le tasse per legge. Cioè, per legge lei è sindaco, mi dispiace, fa con quello che ha. In Italia si sta male, in Italia si sta male. Si sta male, si sta bene, si sta peggio, si sta meglio anziché no. Il 15 è il primo anno in cui facciamo un passettino in avanti, più 0,8. Il prossimo anno faremo più dell'1,5%. L'importante però è che ci credano gli italiani, perché è tutto nelle nostre mani. Si sta peggio, si sta meglio anziché no. Uno molto tipo mastica il pallone, stacca Bertolacci che tocca dietro, verso Bonaventura, Bacca! 2-1! Quella spagnola, la remontada. Da quando nasce a quando muore. Eccola qui la remontada vera, Frosinone. Mentre c'è invece... stamattina mi sono svegliata alle 5, come al solito, e ho guardato subito il telefonino, abitudine, anche perché dovevo scrivere a mio figlio come da accordi sottoscritti il risultato della partita di ieri. Quando c'è una partita serale vuole sempre sapere il risultato. Parte Candreva, il tiro, Andanovic, ancora Candreva, rete, Lazio in vantaggio. E andiamo. E ho pensato, beh, sono le 5, ma meno male che c'è l'Inter. Era da un po' che non la dicevo questa, Salutiamo la capolista, salutiamo Mauro Meazza che poi si sveglia con calma. E allora, cari italiani, siamo qui, noi siamo qui, vedo già che latitate. Siete per caso in vacanza? 349-238-6666, le scuole sono ancora aperte, le aziende producono. Bisogna fare tutto come prima. La pubblicità Radio 24 è un po' diminuita, questo è un bene, e quindi si entra prima. Sono le 6:30 minuti in questo istante. E però noi ci siamo fino al 24 dicembre. Guardalo lì Lorenzo Nespoli, guardalo lì Peter Bescapè in regia. Siamo qui, la squadra è al completo. E voi? Chi lo sa? In Italia si sta male. Dai, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, anche WhatsApp. Diteci un po' tutto quello che pensate, cosa state facendo, state già preparando il capitone? Oh Milan, hai anche tu WhatsApp? Questa te l'ho tirata così. Questa è proprio, era un assist per Candreva, proprio al bacio così. Allora. Eccoci qui nella settimana di Natale. Oh, è tornato Renzi, avete sentito? L'articolo migliore oggi è della Stampa, che Fabio Martini spiega tutto quello che sta succedendo. È sempre lo storytelling, bellezza, lo storytelling. Ricordate il racconto, la narrazione, questo conta. E allora, che è successo negli ultimi giorni? Avete per caso visto, aprendo il frigorifero, che è spuntato Renzi a casa vostra? Siete scesi in cantina e c'era Renzi. Oh, buongiorno signora, eccoci qua, buongiorno. Eh sì, perché Renzi, da quando è un po' in difficoltà, da qualche giorno, per questa storia delle banche, ha pensato a una sola cosa, come racconta la stampa. Rimontare, anche qui la remontada va di moda in questi tempi. E quindi l'ingaggio di Cantone, Cantone si occupi delle banche. In TV ovunque, ieri all'arena di Giletti, TV, radio, non si va a perdere un'occasione. E poi ancora la lite con Brunetta, l'accordo per i giudici della Consulta mettendo da parte il PD, Forza Italia, e quindi facendo l'accordo con il Movimento 5 Stelle per la Consulta. Poi il Movimento 5 Stelle ha attaccato dicendo abbiamo fatto la legge di stabilità e loro erano a dormire. Insomma un Renzi che cerca di recuperare a tutti i costi. Ebbene, ci sono Ivan da Valera Fratta, è presente Valera Fratta. Che paese è Valera Fratta? Chi è? L'inno della Lazio? Dai, sarà contento Cruciani, dai. Renato da Trento è già al lavoro da un'oretta. Ci siamo, non sei solo a essere sveglio, che bello vedere. Buongiorno, ci sono da Ro, un altro ascoltatore. Sono già in viaggio da un'ora, voglio le ferie, un altro ascoltatore. Sergino lavora, evviva, evviva. Allora dai, premo il parlamento, saluto anche Lidia da Bergamo, ci manda un saluto, ricambiato. Quindi se mai ci vediamo più tardi. E anche Pierluigi, albero di Natale fatto coi giornali. Vabbè. Oggi ti ascolto attraversando Roma in autobus. Beh, questo è un vero eroe moderno e da domani ti ascolterò dal letto. Vedi, ci sono le vacanze anticipate. Allora, voglio salutare intanto con noi ci sono il direttore di Affari Italiani, Angelo Maria Perrino, buongiorno. Eccomi, buongiorno a tutti. Affariitaliani.it, tu c'hai già il capitone pronto? C'hai già quasi pronto, sì, anche il baccalà, che adesso va molto di moda. Cos'è che fai anche? Il baccalà. Al baccalà. Era andato del sud, che Galli della Loggia oggi giustamente ricorda che è stato dimenticato da tutti. È vero, ha scritto questo editoriale sul sud dimenticato nella narrazione di Renzi, nello storytelling di Renzi. Però guarda, caro Perrino, ti presento una persona che è renziana nel midollo. E, la conosce la nostra Veronica Gentili? La nostra... Di fama. Quale fama, scusa? Di fame. Cominciamo, no? È Natale, di fame. Io lo dico perché così la carico a molla, quando la carico a pallettoni, renziana nel midollo. Carica a pallettoni misti, ma questa settimana ci abbiamo di tutto e di più, insomma. Di tutto e di più. Allora, la nostra Veronica Gentili, come stai? Tutto a posto? Bene, tra poco è Natale, tutti in vacanza, bene, tutto a posto, non vedi l'ora. Evviva. Allora, caro Angelo, ti piace questo Renzi che fa la remontada? Ieri l'ho visto con Mauro Corona. Cosa ci faceva Mauro Corona all'arena? Vabbè, che dire, insomma, si sta dando da fare, deve recuperare il terribile KO per la vicenda delle banche, dunque vuol risalire e niente. Ti devo dire che tutta questa vicenda però ci consegna una verità che, ci piaccia o no, è incontrovertibile: non ci sono alternative a Renzi, né parlamentari né politiche. Se va via Renzi siamo nei guai addirittura. Prova a fare un nome e dire questo potrebbe essere il sostituto. Ma c'è questa cosa degli italiani che pensiamo sempre ai nomi, alle persone salvifiche, a questo, non lo so, forse dovremmo non pensare più ai nomi, a quelli che ci salvano, ma alle formazioni, alle coalizioni. Anche lì appunto in Parlamento prova a fare una maggioranza diversa da quella rabberciata, verdiniana, eccetera, eccetera, con Berlusconi che dà i voti sotto banco, diversa da questa. Non c'è. È dura. Ma te la dice Veronica Gentili, dai, c'è il nome, ce l'ha lì, se lo so, sulla punta della lingua, dai, il nome. Il nome purtroppo ancora mi manca, ma ve lo dico per l'anno nuovo, questo è sicuro. Oh. Però diciamo che vedendo quello che succede altrove nel resto d'Europa, anche la lezione della Spagna di ieri ci dice che non è così. Nel senso che non è così, in questo momento non esiste più il bipartitismo, Renzi è più forte perché in Italia non c'è la destra, quindi negli altri paesi si verificano fenomeni diversi, perché il Partito Popolare ha comunque ancora uno zoccolo duro di persone che lo votano, mentre qui la situazione è diversa, cioè lui è riuscito ad inglobare anche una fascia di voti molto più di centrodestra, ma esistono una serie di partiti nuovi e di nuovi schieramenti che cambiano il gioco delle forze. È per questo che Renzi si è spostato così di equilibrio verso destra, non aveva nessun interesse a guardare all'elettorato, che è un po' l'errore, sì. Insomma, fondamentalmente Sanchez sperava di prendere un po' di votini qua e là da Podemos e da quegli schieramenti, non ci è riuscito. Renzi invece ha fatto un'operazione programmatica dall'altro lato, e quindi per ora sta, ma secondo me in questo momento sta nel malcontento generale. Sì. Ma ragazzi, stiamo facendo analisi del voto alle 6:37 del mattino, ma io vi ammiro alla grandissima. Io in questo momento sto ragionando veramente se ho capito bene il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Ma in realtà siamo in uno stato ipnotico tutti quanti e non sappiamo quello che stiamo dicendo. Mi sembra giusto. Comunque guarda qui che straordinaria comunità. Mauro da Legnano, siamo già in autostrada. Debosciato, vabbè, il debosciato è Angelo Maria Perrino. No, sono io ovviamente. Ce l'ha con me, ovviamente. Ma io stavo subito distribuendo insulti a destra e a manca. Simone dal Basso Vicentino, ma guarda gente, sono sveglio alle 4:44 e lavoro sul mio carrello dalle 6. Richard, questa è l'Italia, l'Italia che mi piace, sono siete tantissimi, ma insomma, questa storia delle banche, allora, la scaverà via così, caro Perrino, cioè è finito tutto, la Boschi non si dimette, le polemiche messe da parte, ma non lo so se finisce tutto così in 4-4-8. Dal punto di vista giudiziario ovviamente la questione andrà avanti e penso che ne verranno fuori ancora delle belle. Dal punto di vista politico forse è stato fatto un errore, perché la mozione è stata presentata alla Camera, dove c'è una maggioranza schiacciante a favore di Renzi, e quindi basta, è chiuso. Una sì, questo politicamente sì. Chiuso. Sì, ma lì vabbè, si sapeva, non è che puntavano a farla dimettere. Però questo ha sancito la chiusura politica del caso Boschi, ahimè. Ci piace o no, ora bisognerà scoprirne di nuove e cambiare il gioco. Bisognerà lavorare per una mozione contro Renzi, non so bene che cosa. Sta di fatto che quello è stato un errore tattico dei grillini. Credo che dal punto di vista politico la vicenda sulla Boschi sia finita, a meno che non compaia qualcosa sul padre ancora, per carità, l'abbiamo detto mille volte, le colpe dei figli, dei padri eventuali non ricadono sui figli, ma oggi Repubblica racconta questo, per esempio, che un ispettore di Banca Italia già aveva detto al procuratore Rossi, Veronica Gentili, sai chi è Rossi? Sì, certo. Quel procuratore capo di Arezzo. Devi fare dei commenti subito? No. Adesso aspetto, perché sulla Boschi ti stupirò. Quindi... aveva detto questo. Vedrai. Aveva detto che praticamente c'era un direttorio parallelo, cioè il CDA era incompetente, c'era un direttorio parallelo gestito dal presidente Luca Rosi e i due vice Alfredo Berni e Pierluigi Boschi. Pierluigi Boschi risulta essere il papà. Questo però in realtà non cambia quello che io penso di fondo. Io credo che focalizzarsi sull'aspetto Boschi nella questione banche sia stato, secondo me, abbastanza un po' inutile e abbia anche un attimo deviato l'attenzione, perché onestamente io credo che l'aspetto del conflitto di interessi della ministra sia minimale nella cosa. Io credo che il padre non si sia comportato bene neanche da un punto di vista umano, perché probabilmente avrebbe dovuto mettersi lui da parte ed evitare di mettere la figlia in una condizione di questo genere. Sì. All'idea del favoritismo a livello di carriera promozionale del padre io non ci credo. Credo più, se vogliamo, più un retroscenista la mia visione, ma credo che sia stato più Banca Etruria e il Consiglio di Banca Etruria a pensare di trarre dei vantaggi dalla promozione del padre di un ministro. Quindi in questo senso io non ci credo particolarmente e non credo affatto che sia il perno della questione. Poi per carità, cioè, si può discutere sul fatto che tutti i vertici non paghino. Quindi ha fatto bene a non dimettersi assolutamente. Non credo fosse questo il punto della questione. Quindi no. siamo d'accordo, hanno sbagliato il bersaglio. Hanno sbagliato al bersaglio. Ma sì, hanno. Ma io ripeto: se qualcuno del Movimento 5 Stelle pensava davvero di far dimettere la Boschi con questo, beh, allora. Ma io questo non lo credo nemmeno. In realtà, hanno io credo peccato di un'ingenuità incredibile. Forse volevano fare una pressione politica su Renzi. Dai, diciamo la verità. Il risultato ma in che realtà... hanno ricompattato la maggioranza poi alla fine. Beh, dici. Perché cosa succede quando poi vengono respinte al mittente queste mozioni? Dici c'è un... E tutti, anche la sinistra del PD si è ricompattata. Sì, vabbè, ma tanto i ricompattamenti durano 4 minuti su tutti i fronti, quindi sì, queste iniziative parlamentari si fanno per questo, per verificare la tenuta, e la tenuta c'è stata. Se vuoi, l'unico risultato che hanno portato a casa è di spaccare il centrodestra, perché Salvini e Berlusconi si sono manifestati in modo diverso su questo caso, ed è stato evidenziato il grande dilemma di Forza Italia, che ha dovuto lasciare l'aula per nascondere questo imbarazzo, e oggi tra queste due formazioni ci sono problemi politici che dicono essere passeggeri, ma sta di fatto che abbiamo visto Salvini e Berlusconi andare in rotta di posizione. Sì, soprattutto Forza Italia sembra un po' lo sfascio. È una tematica che si riproporrà senza soluzione di continuità, perché comunque finché coesistono delle anime così diverse lì dentro. Verdini ieri stava, no, che si fregava le mani dicendo che entro breve lui raddoppierà i suoi, perché effettivamente c'è un'insoddisfazione collettiva di moltissimi, perché chiaramente Berlusconi sta facendo un occhiolino, si fa per dire, a tutta la parte veramente più a destra, la Lega, e cioè tutta dai romani in giù, che sono molto molto molto scontenti, e questa è stata un'occasione in cui è stato palese. Senti qui, allora, stiamo andando a Torino per lavoro, non pensavo che Milan fosse veramente in onda a quest'ora, ma che mi fa, mi percula questo, non ho capito, sono 5 anni che... Vabbè, un saluto da Taranto Andrea, un saluto da Francesca, infermiera, sta terminando il turno, buonanotte ovviamente a Francesca, questa in coda a Bustarsizio perché dice due coglioni hanno tamponato, e Emilio, vabbè, succede. Saluto anche Piero la tigre di Conversano in provincia di Bari, ci segue, così come Claudio odontotecnico, che ci fa sapere sto già facendo i denti a quest'ora. Sì. Ecco, lui è più pericoloso di noi, perché noi possiamo dire, capito, un po' di così delirare politicamente, lui a quest'ora è pericolosissimo abbastanza. Allora, caro Angelo Maria Perrino, sai che c'è una tradizione che ha inaugurato qui Veronica Gentili, c'è gente che ci ha già fatto il calendario, si è fatta il calendario alcuni nostri ascoltatori. Sai qual è la tradizione? I nostri ospiti cosa devono fare? No, dimmelo. Ci devono fare un selfie. Ah, ok. T'ho mandato nel panico il adesso. Terrore, no? Del terrore di Angelo. No, Angelo, ci sei ancora? Sì, ci sono. No, un selfie, nel senso, fai quello che vuoi. Vuoi fare una foto a un angolo di casa tua, o se non sei a casa tua, non lo so, non vogliamo saperlo questo. Puoi fare ciò che vuoi. Veronica ci manda il suo selfie, perché così ci fa affrontare la settimana con ottimismo. Poi questa, siamo prenatalizi, prima di congedarci, insomma. Esatto. E tu invece manda una foto di quello che vuoi. Okay. Però dimmi cosa. Ho davanti a me dei mandarini, possono andare ottimo, bene. Ottimo, dei mandarini in vitamina C a quest'ora. Esatto, è fantastico. Esatto. Sono raffreddatino. Va benissimo, però io vi devo far sentire lui. Lui è tornato. Il migliore amico di Veronica Gentili, personaggetta. Eccoci qui. È tornato nelle sue conversazioni a Lira TV, la TV di Salerno. È tornato lui, Vincenzo De Luca. No, ma ve lo faccio sentire tra un attimo, dopo il traffico. Vincenzo De Luca sulla Boschi, tra poco. Il cardinale Bertone restituisce un malloppo indietro i 150.000 euro. A me è un'occasione del Santo Natale, diventate buone, capisci? Gesù bambino che abbraccia. Oh, Alino, digli a quella fava di Pieraccioni che la smetta di fare film del cazzo. Ridammi un po' 8 euro, Pieraccioni, e falla finita. Va a spacciare l'argine, vai, è meglio. Oh Milan, noi siamo poveretti, non contiamo niente, viviamo a immagini, nella semplicità, ma la capacità dei media, dei voli, sai qual è? Quella di galleggiare nelle fogne, lo sapete? La galleggiare nelle fogne. Oh Milan, sono Fiorentino. Stamattina ho sentito che vogliono fare una scena per tutti i radioascoltatori di Radio 24. Ve lo organizzo io in Toscana. Sì, aperitivo al Barbagianni, ci state bene anche voi. Poi si va a cena alla baracca in un posto particolare. Poi dopo cena, grande pisciata generale nel padule di Porcari. Si gode come dei maiali. Te lo dico io. Ciao. Vabbè. È Natale. Questo ascoltatore era l'amico mio solito. È toscano, certo. Vi siete sentiti? Sì, non ancora, ma a Natale lo chiamo, così vedo se mi posso aggregare alla sua iniziativa. Sol toscano. Sì, lui si presenta sempre così. Allora, siamo con Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani.it, e con la nostra Veronica Gentili, che collabora sul Fatto Quotidiano, blogger, attrice, scrittrice, pensatrice, poi basta. Quante cose si fa? Vabbè, a quest'ora di mattina, sai. E sì, c'è lui. Pensatrice con due T. Cos'è che è? Pensatrice con due T. Pensatrice, certo, perché, esatto, perché è un'attrice che pensa, capisci? Pensatrice. Sì. Sentite, sì, qui, De Luca, governatore della Campania. Ho visto che alla Boschi fanno la mozione di sfiducia. Siamo veramente alla barbarie. Cioè, è come presentare la mozione di sfiducia alla Venere di Botticelli. E che cosa? E perlomeno la Boschi, te. Salvaguardiamola in un paese triste, grigio, burocratico. Diamole l'extraterritorialità, diciamo politica. Ma non è un genio, Perrino. Devo dire che De Luca, anche nella versione di Crozza, ancora migliore, non si distingue tra i due. No, è meglio l'originale. Io non capisco perché non gli abbiano ancora fatto doppiare un cartone animato. Che è straordinario. Senti qui ancora con Di Maio, no, del Movimento 5 Stelle. Si discute addirittura di De Maio come possibile candidato premier. Di Maio si presenta bene, un po' come Charlie Brown. Mi hanno dato un po' un curriculum vitae di Di Maio. Di Maio si è candidato a Pomigliano, ha preso credo 50-60 voti, cioè non lo hanno votato neanche i suoi familiari, per essere chiari. Questo è Di Maio. E poi cosa c'ha la vocazione? Aspetta, senti ancora, la vocazione da... Vuole fare il candidato premier. Assistente regista, tecnico riparatore dei computer, manovale presso un'impresa edilizia. Quindi a un certo punto la sua vocazione l'aveva scoperta. Avrebbe pure avuto un'ottima carriera, perché dopo un anno sarebbe diventato sicuramente carpentiere. E così ce lo ritroviamo. Niente, cioè, di meno. Ma voi capite? È cattivo perché è nel suo collegio elettorale, sì, dunque deve un po' colpirlo. Ma devo dire, è proposta per Crozza, lo deve assumere come autore. Esatto, autore di Crozza direttamente dalla campagna. Personaggetti, gentucola, cialtroneria pura. Non c'è nessuna differenza. No, infatti. Ma nessuna, sono irriconoscibili. Uguale, assolutamente uguale. Allora. Intanto io vi ho mandato le mie foto su Twitter. Su Twitter, ma fantastico, i mandarini, anche Veronica Gentili ha mandato in tutto questo. Abbiamo un serio problema di connessione e no, non sta arrivando la foto a Lorenzo, no, quindi cercate di... Vergogna. Siamo in un momento di panico. Eccolo qua, ci ha mandato i mandarini e anche un melograno, melograno. Esatto. Si porta bene. Che secondo me è pronto a essere mangiato dall'82, più o meno. C'è un melograno e 3-4 mandarini. Ma straordinario, Angelo Maria Perrino, che ci manda, ho subito ritwittato. Oh, questa arriva invece di notizia dalla Norvegia. Vorrei farvela commentare, perché succede questo. In Norvegia ci sono tanti stranieri che sono arrivati, come anche in Italia. E sapete che fanno? I corsi sui diritti della donna. Per insegnare ai migranti che, per esempio, no, ti giuro, lo racconta Il Giorno, ma guarda che lei non è obbligata a fare sesso se non lo vuole, eh? Cioè, guarda che glielo devi chiedere, e fanno dei corsi così, e c'è una grande polemica, perché dice, ma che li avete presi per buzzurri, c'è chi dice che questo è razzismo, c'è chi dice che invece è giusto, insomma... fargli capire quali sono i nostri valori, soprattutto nel rispetto della donna. Non lo so, però datemi un parere. Più che altro, se c'è l'esigenza, è un po' evidentemente da qualche parte servirà, perché ci sarà chi si sente vessato e costretto a doverlo fare, tale il livello di così. Non lo so, cioè, per esempio gli dicono: guardate che la legge qui in Norvegia è svincolata dalla religione, non è che c'è proprio la sharia dalle nostre parti in Norvegia, dovreste saperle queste. Non lo so, ti pare, Angelo, ti pare un'iniziativa giusta? Oppure, insomma, per chi li hanno presi? Ma io ti dirò, però, stavo seguendo questo tuo retweet che sta provocando un terremoto, sei seguitissimo. Cioè? Dai. Quale? Il melograno? Il melograno stanno spopolando entrambi. Io acquisisco followers e ringrazio. Per aver fotografato dei mandarini. Cioè, uno fa una vita di giornalista, poi fotografa tre mandarini e acquisisce. Esatto. È fatta, capito? E si conferma invece che la nostra Veronica è sconnessa. È sconnessa, o no? Sì. Adesso Scato. Cercherò di rimediare, non so, in qualche modo. Non potrai mai rimediare. Questo tanto già ormai. No, adesso ormai, il broncio prima di Natale, ormai, questa è la fine. Babbo Natale non mi porterà niente, solo carbone. Mandarini per tutti. Vabbè, comunque. Mandarini per tutti questa mattina, è finita così. Vabbè, comunque, stavamo parlando della Norvegia, Angelo, che dici? Direi, se, va bene così, non saprei aggiungere qualcosa di specifico. Dalla Norvegia arrivano i migliori baccalà, dunque insisterei sul filone natalizio. Ah, vabbè, sul filone natalizio, va bene così allora. Allora, sappiate che oggi il Sole 24 Ore mette la classifica delle città dove si sta meglio. Come ogni anno, sapete qual è la qualità della vita dove vince? Non Roma, caro. Strano. Poi devo dire che questi giorni qui è una meraviglia, il prefetto Tronca se le ha inventate tutte, sì. Tanto poi qui a Roma ognuno fa come gli pare comunque, però targhe alterne, ieri non poteva circolare il traffico, sì. Avremo tutti questa cosa che in casa dobbiamo stare a 18 gradi, non si possono sforare, altrimenti... Giusto. Sì, la rispettiamo. Comunque, al primo posto è Bolzano, tu, poi devi, quando citi il prefetto devi dire il prefetto... Tronca, devi essere un po' più determinata. Lavoro. Ok. Milano, le prime tre province della classifica, Milano è seconda. Angelo, Milano è seconda. Come qualità, insomma, della vita? Avranno votato non fare la stupida. I followers di Pisapia. No, non lo so, è Trento terza, Milano seconda. Vabbè. Comunque, Roma arretra, sedicesima, ma adesso è arrivato Tronca. Quindi sarà tutto a posto. Sicuro, la qualità della vita adesso a noi cambierà nettamente. Poi con queste targhe alterne di questi giorni io già lo sento che respiro meglio. Mamma, è un po' come sentire il mentolo nella guarda, città. Guarda, non c'è peggior cosa che toccarle i movimenti, no? Basta che Angelo, basta che tocchi alle persone la possibilità di muoversi, di dover fare un chilometro a piedi. Questo arriva qui pensando di stare a Milano, pensando che funzionano i mezzi pubblici, pensando che la gente di stare si muove. Stai a Roma. Vabbè, ho capito. Non ho capito. Vai a Roma e quindi no, continua la tua frase, sennò poi insultano me. Stai a Roma, quindi? Quindi cerca di pensare che è una città che è strutturata in tutt'altro modo, che ha altre dimensioni, in cui i mezzi pubblici funzionano in un altro modo. Tu blocchi il traffico la domenica prima di Natale a Roma. Disastro. È chiaro, panico. Cioè, Roma non è proprio attrezzata per un ascoltatore ci chiede chi parla male dei carpentieri. Niente, tranquillo. Tutto a posto, nessuno parla male dei carpentieri. Vi devo salutare, grazie ai mandarini, al melograno di Angelo Maria Perrino e a Veronica Gentili che non ci ha ancora mandato la foto, gravissimo. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ecco. Eccoci cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti, questa è 24 mattino, siamo pronti con la rassegna stampa, siamo in onda regolarmente e fino al 24 per quel che mi riguarda, il 24, quindi anche la vigilia di Natale con voi. E poi per attenti a noi due rimarrà attenti a uno, nel senso che Oscar Giannino rimarrà, io invece mi fermo fino al 7 gennaio, E allora, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali? Voi ci siete? Scriveteci messaggi al 349-238-6666, come ho detto alle 6.30, siete già in tantissimi che state scrivendo, quindi le vacanze di Natale non sono ancora cominciate, bene, sono contento per voi, mentre è cominciata la 138esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Dai, giornali, che è meglio. Che è meglio, lunedì 21 dicembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, come avete sentito, è uscito con la classifica classica annuale delle qualità della vita nelle province italiane, vince Bolzano, al secondo posto Milano, al terzo posto Trento, mentre il Sud in coda con Reggio Calabria, Roma è sedicesima, ma tutti i dettagli li vedremo poi con Mauro Meazza. Mauro Meazza oggi sarà contento per questa cosa della qualità della vita. Saluto la capolista. Allora, intanto gli altri titoli. Il Corriere della Sera apre con un'intervista a Raffaele Cantone. Così farò da garante sulla questione delle banche, parla il capo dell'anticorruzione. E poi Repubblica, il voto frantuma la Spagna, è un inizio di vari titoli dedicati alle elezioni politiche in Spagna, dove c'è stata un'impasse politica in pratica. La Stampa, Rajoy, vittoria senza maggioranza. Il Messaggero, caos Spagna, niente maggioranza. Tanto che l'Unità mette: no Podemos, addio Spagna bipolare, è come l'Italia bloccata del 2013 prima dell'Italicum. Dunque l'Unità, come ieri il ministro Mariana Boschi, che ha fatto un tweet dicendo appunto grazie all'Italicum non sarà più possibile quello che sta succedendo in Spagna, l'Unità ricalca così il titolo di prima pagina. Ma anche il Fatto Quotidiano mette una Spagna agli italiana, gli anticasta di Podemos levano la maggioranza a Rajoy. Le banche invece per Libero, banche un altro salva papà, dopo aver annunciato una commissione d'inchiesta sul caso Etruria al Premier ripiega su una semplice indagine, mentre il giornale, il governo occupa le TV. Allora, però voglio partire da altre notizie come quelle di cronaca. Una pagina del quotidiano Repubblica con Jenner Meletti è interessante perché va a vedere quante parrocchie hanno ospitato i migranti. Ricordate la famosa frase del Papa: ogni parrocchia ospiti un migrante? Ebbene, il titolo di Repubblica è questo: porte chiuse agli immigrati, la solidarietà flop delle parrocchie. A tre mesi dall'appello di Papa Francesco, solo poche centinaia di letti per i profughi. Difficile dunque, scrive Repubblica, per le famiglie di migranti trovare l'ospitalità chiesta con forza da Papa Francesco. Ogni parrocchia, disse il pontefice all'Angelus, accolga una famiglia. Non esiste un censimento ufficiale, ma bastano pochi numeri per raccontare come sia stato e sia difficile nelle 25.000 parrocchie italiane rispondere all'appello. A Roma città 334 parrocchie, entro la fine di gennaio saranno accolti 170 migranti. A Milano 1.000 parrocchie, perché la diocesi comprende anche Brianza, Lecco e Varese, sono a disposizione 400 posti letto. A Bologna, su 416 parrocchie, soltanto 4 hanno dichiarato la loro disponibilità, assieme a 5 privati, 2 comunità religiose e 2 altri enti. Insomma, in tutto 30 posti letto. Ecco dunque che i numeri sono abbastanza impietosi. In questa pagina che trovate, in una pagina intera, pagina 23, a Parma una decina di parrocchie su 350, insomma le percentuali sono abbastanza basse, ma ci sono poi testimonianze, racconti in questa pagina di Jenner Meletti su Repubblica. Saltiamo invece a quello che sta succedendo al Colosseo. Oggi due titoli mi hanno un po' inquietato sul Colosseo. Il Colosseo resta senza manutenzione. Questo è il titolo di Repubblica, mentre il Messaggero, comprensibilmente da quotidiano ben diffuso nella capitale, dedica un'intera pagina con Laura Larkan a questo tema. Roma, vergogna Colosseo. Niente fondi per il 2016. Che succede? Succede che la soprintendenza archeologica non ha messo in bilancio neppure un euro per la manutenzione del monumento più visitato al mondo. Il 2016 si prospetta come l'anno dell'austerity per la Casa dei Gladiatori, un caso senza precedenti. La Soprintendenza Archeologica di Roma, speciale autonoma, non ha messo in bilancio neppure un centesimo per la conservazione del monumento più visitato di Roma e d'Italia. E sì che si tratta del capitolo essenziale per consentire la tranquilla apertura al pubblico. Tradotto, non riceveranno al becco di un quattrino tutte quelle attività di cura, pulizia, pronto intervento, sicurezza, conservazione quotidiana messe in campo da ditte di operai specializzati che permettono a un monumento di 2000 anni di accogliere flussi di 15.000 visitatori al giorno. Per l'anno del giubileo i tecnici avevano chiesto un finanziamento di almeno 1,5 milioni di euro. La risposta della soprintendenza è stata questa: zero. Tutto scritto nero su bianco nel bilancio 2016 firmato dal soprintendente Francesco Prosperetti, approvato dal CDA. E dunque la vergogna sul Colosseo. A proposito di soldi, siete un po' tranquilli a tirare un sospiro di sollievo? È Natale per tutti, è Natale anche per voi cari italiani, Equitalia lo sa, Equitalia vi pensa, Equitalia è dalla vostra parte. Mi piace come spot. E quindi Equitalia ha deciso che, salvo le cartelle esattoriali, quelle importanti, quelle improrogabili, quelle fondamentali, per il periodo natalizio Equitalia non vi penserà. O meglio, vi penserà, ma non vi scriverà. E dunque, cartelle sospese per Natale. Ah! Per Natale non vi vogliamo rovinare i cenoni, non vi vogliamo rovinare gli aperitivi con le suocere e i suoceri, non vi vogliamo rovinare le cene con gli amici, i brindisi di fine anno, ma sappiate che dal 7 gennaio vi penseremo intensamente e vi scriveremo e torneremo a occuparvi di voi. Questo è ciò che ha fatto Equitalia. Vara la tregua di Natale, ok la manovra. Ecco le novità, insomma, niente cartello dall'Agenzia delle Entrate fino all'Epifania. Questa è la novità ultima, come raccontano i vari giornali. Niente cartelle sotto Natale, poi però ci sbizzarriremo un pochettino. Il Corriere della Sera racconta una storia che proviene dall'Università di Napoli, ma potrebbe provenire da ovunque. Riccardo Bruno lo fa a pagina 25. Racconta la storia di Noemi Giorgiano, 19 anni. È aspirante studentessa di medicina. È una matricola fantasma. Mi ha molto incuriosito. Che vuol dire una matricola fantasma? Vuol dire questo. Gli abusivi autorizzati non sono solo i parcheggiatori, ma anche gli studenti in Italia, come Noemi Giorgiano, 19 anni. Ha tanta voglia di studiare medicina, a settembre ha superato il test di ammissione, ma attende ancora di sapere se per lei ci sarà mai un posto. Non si è mai immatricolata, né ovviamente ha mai pagato la retta, nell'attesa però frequenta regolarmente le lezioni alla Federico II di Napoli. E lei dice: «Sono una studentessa fantasma». D'altronde quest'anno i posti disponibili in tutta Italia erano 9.530, i candidati 6 volte tanto. Alle prove di accesso sono stati 25.579. Chi ha ottenuto il voto più alto ovviamente ha la precedenza, ma il sistema tiene conto anche delle preferenze della sede. Così la procedura prevede scorrimenti periodici. Lei ha passato l'esame ma non sa se potrà essere immatricolata lì alla Federico II. E dice: la prima settimana non sapevo se firmare il foglio delle presenze, poi l'ho fatto alla fine. Finché non le verrà indicato se avrà diritto a studiare e dove, fa i sacrifici come se fosse una studentessa come le altre. Mi sveglio alle 6 del mattino, esco alle 6.33, vado in stazione, prendo il treno, poi la metropolitana e alle 7.53 sono all'università. e così racconta il suo test superato, ma non sa se avrà ancora un posto. Nel frattempo frequenta regolarmente le lezioni, ovviamente senza pagare la retta, visto che non sa se verrà accettata lì. Ma eccoci qui, è il momento dell'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante. E siamo su un tram, quindi dovremmo mettere mani sul trolley, mani su non so, sul reggimano, mani ovunque. Palermo, racconta la stampa, Palermo, un tram chiamato Desiderio, i politici litigano e i vagoni girano vuoti. Laura Anello racconta, pagina 15 della stampa, che appare come l'olandese volante, il vascello fantasma. Non vola però, scivola lungo le rotaie nuove di zecca. Supera le distese di lamiera delle macchine nel traffico, attraversa i quartieri popolari di Palermo, arriva a destinazione e poi torna, arriva e poi torna, efficiente, puntuale. È il nuovo tram di Palermo, 3 linee costate 8 anni di lavoro e 320 milioni di euro. Gira, ma vuoto, vuotissimo. Senza un solo passeggero, senza un solo biglietto. E già, perché mentre i vagoni girano in un eterno collaudo, la politica litiga. E la politica che litiga, litiga su chi debba gestire il servizio, con quali risorse, con quali mezzi, con quale personale. Il sindaco, urlando, è arrivato a mettere sul tavolo le sue dimissioni, a dire: se non approvate il contratto di servizio me ne vado. Intanto il tram gira, vuoto. I passeggeri non possono salire. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Villan, il cantone dell'informazione. Messa non a caso, perché tra poco parlerò di Raffaele Cantone, ma devo dire che è straordinario, perché ho fatto questo appello da S e mezza a dire: diteci se siete con noi e non siete in vacanza. E sono tantissimi messaggi che mi arrivano. Franco da Lugano, che alle 6.44 ha già parcheggiato e inizia a lavorare, inquinamento alle stelle. Ma come a Lugano, nella Svizzera? Buongiorno alla provincia di Chieti, sono un medico, sto andando al lavoro, ma sono solo 2 o 3 dei tantissimi che arrivano, messaggi. Grazie per questa vicinanza, in modo che se vi sento vicini, la sveglia delle 5 è un po' più soave. Allora, Raffaele Cantone. Ma che è? Ah, sono le meazza meno 10 minuti. Va bene. Chissà come starà il nostro Maurino. Allora, Raffaele Cantone parla al Corriere della Sera del caso Banche. Intervistato da Giovanni Bianconi, a pagina 5, non sono un parafulmine ma un garante. Così è il titolo dell'intervista. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, esordisce Cantone nell'intervista, non si occupa né si occuperà di banche, così come non farà valutazioni su vicende delle quali si sta occupando l'autorità giudiziaria. Del resto, io non sono un tuttologo, sebbene qualcuno voglia farmi passare per tale. Metteremo a disposizione la Camera Arbitrale, che già esiste nella nostra struttura, è presieduta dal professor Auletta, esperto della materia, e si è già occupato di arbitrati bancari. Il nostro compito sarà garantire la correttezza, la terzietà degli arbitrati. Rispetto alle rivendicazioni dei privati, cioè i risparmiatori, e alla parte pubblica chiamata a pagare i risarcimenti, cioè lo Stato, ci deve essere un terzo che decide, l'arbitro, appunto, che sarà scelto dalla nostra struttura in base a criteri che in parte bisognerà scrivere nella legge che ci affida tale compito. Ma allora, Cantone, non è un atto di sfiducia nei confronti di Banca Italia e Consob il fatto che Renzi abbia chiamato lei? Questo non spetta a me dirlo, dice Cantone. D'altronde, quando sono stato chiamato, io ho risposto che all'interno dell'autorità anticorruzione c'era già una struttura che poteva svolgere il ruolo riassunto prima. Se per ragioni di opportunità altri hanno ritenuto di non rivolgersi alla banca centrale o a chi vigila sulla borsa, che alternativa c'era? Creare un altro ente ad hoc? Ho detto che potevamo farlo noi. Comunque questo è Cantone, che poi parla degli ottimi rapporti con Ignazio Visco di Banca Italia. Il risultato mediatico è che ci sarà ancora il timbro dell'anticorruzione, ribadisce Cantone, solo ed esclusivamente per garantire la correttezza degli arbitrati nei quali è chiamato in causa lo Stato, non le banche. Non ci occuperemo della crisi del sistema bancario, bensì di situazioni specifiche. Parla anche di Roberto Rossi, procuratore capo di Arezzo, che si è scoperto avere una consulenza al governo. Per come lo conosco, continuo a considerarlo un magistrato competente e integerrimo. L'incarico che ha ricoperto non è una consulenza per il governo, ma un contributo di studio su alcuni singoli provvedimenti legislativi richiesto a molti altri colleghi. E comunque, come mi sento io, non sono né un parafulmine né una foglia di fico. Se ci sono problemi da risolvere, esistono gli strumenti a disposizione, mi pare giusto utilizzarli. Insomma, così parla Raffaele Cantone, scelto e indicato da Renzi come colui che dovrà in qualche modo affrontare la questione. Ieri comunque su questo c'è sia il parere di Ignazio Visco, che ieri è stato intervistato da Repubblica, poi ieri sera era da Fabio Fazio a difendere Banca Italia, a dire che Consob era informata, a dire che i risparmi degli italiani sono al sicuro e a dire che non ho mai pensato di dimettermi. Qualcuno ha letto la sua visita al capo dello Stato Mattarella come un rimettere il proprio mandato, in realtà lui dice era una visita fissata da tempo. Diciamo che l'offensiva mediatica certamente c'è sul tema delle banche. Sul tema delle banche, però, l'articolo forse più interessante di sviluppo è quello di Fabio Tonacci a pagina 12 di Repubblica. Alla guida dell'Etruria un CDA incompetente e un direttorio parallelo. È ciò che già si coglieva dalla testimonianza del capo degli ispettori di Banca Italia raccolta nell'inchiesta della Procura di Arezzo. Racconta Tonacci, Banca Etruria è stata governata da consiglieri di amministrazione quasi tutti privi di competenze specifiche in materia bancaria, da un CDA che aveva abdicato al proprio ruolo e accettava in modo acritico le decisioni del direttore generale Luca Bronchi. E tutto ciò si legge appunto nella testimonianza di Emanuele Gatti, capo del team di Banca Italia che ha condotto le ispezioni dal dicembre 2012 a settembre 2013. Ancora si legge: in Banca Etruria, nei mesi precedenti al commissariamento, si era creato una sorta di direttorio parallelo e poco trasparente, la commissione consiliare informale. Vi sedevano il presidente Luca Rosi e i due vice Alfredo Berni e Pierluigi Boschi. Quest'ultimo, ormai lo sapete tutti, è il papà del ministro Maria Elena Boschi. Insomma, diciamo che in questa testimonianza già c'erano gli elementi, secondo Repubblica, per dire che qualcosa non andava e già da mesi, e Banca Italia lo aveva, attraverso un suo ispettore o il capo dei suoi ispettori, rilevato. Tra l'altro, dicevamo, offensiva mediatica, anche Renzi la sta facendo, è andato in varie radio e è andato in TV, ieri era all'Arena di Giletti. Renzi, tra l'altro, scommette sul 2016, il PIL sarà oltre l'1,5%, ma ha puntato molto sugli italiani che devono crederci, devono essere più ottimisti. Beh, l'articolo migliore da questo punto di vista, secondo me, è quello di Fabio Martini sulla Stampa, racconta a pagina 7 proprio che cosa sta spingendo Renzi. Da Cantone all'Arena è il Renzi Show per riavere il consenso degli italiani. Fabio Martini racconta da quando ha intuito che la storia delle banche gli avrebbe fatto perdere consensi, Matteo Renzi ha avuto in testa soltanto un'idea, quella di rimontare a tutti i costi. Ogni giorno ha prodotto un effetto speciale, l'ingaggio di Raffaele Cantone, la scenata anti-Brunetta, l'accordo coi 5 Stelle per la consulta, la lite con Angela Merkel, e finalmente ieri pomeriggio si è presentato all'Arena il seguitissimo talk show domenicale nazional popolare di Giletti, si è prodotto in una raffica di battute studiate e radenti. Un autentico Matteo Renzi show. I 5 Stelle ci han provato e sono rimbalzati, in Parlamento hanno fatto una figuraccia, e ancora la legge di stabilità è stata approvata di notte e loro non erano in aula. E Di Maio è diventato vicepresidente della Camera, ma fanno opposizione solo quando sono accese le telecamere. Insomma, gli è venuta la febbre del sabato sera. Un Renzi che cerca di attaccare per riguadagnare consensi, così racconta Fabio Martini. A proposito di Di Maio, invece, viene intervistato da Pietro Senaldi su Libero, un'intera pagina per raccontare un po' chi è, come è diventato vicepresidente, che cosa il Movimento 5 Stelle pensa dell'Italia, ma la parte più centrale, la parte più importante dell'intervista è ancora sulle banche. Avevano una banca Renzi e Boschi, dite la verità sui soldi, dice Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, che Renzi sta comunque pagando le conseguenze della vicenda banche. Il governo è intervenuto su Etruria pesantemente, prima quando la banca era quasi fallita, agevolando l'impennata delle azioni col decreto popolare, quindi facendone pagare il salvataggio agli altri istituti. Sono cose che fanno perdere il consenso. E ancora, la commistione di interessi tra banche e PD è ben nota, dalla Merchant Bank che parla italiano di D'Alema, all'abbiamo una banca di Fassino, all'avevano una banca di Renzi e Boschi. Ma non è che al PD piacciono le banche, gli piacciono i soldi. Così Luigi Di Maio, intervistato da Libero. Ma è il momento. Ebbene sì, è il momento. È il momento del nostro... Buonaventura, rete di rigore. Controllo il destro! Stavolta è finita davvero! 4-2 per il Milan! C'è chi vince 4-2, c'è chi vince 2-1. Giro andando! Ancora Candreva rete! Lazio in vantaggio! Maurino. Maurino. Buongiorno, ma ci sono dei disturbi, sento... Non lo so, sì, la trasmissione disturbata, non vorrei... Sì, siamo di disturbati più che... Sì, questo può essere, mi ci metto anch'io. Ti piace l'inno della Lazio? Siamo gemellati del resto, infatti si è visto anche, mi pare, di recente. Vabbè. Scusa. Non so se Peter si calma, che saluto caramente, come sempre. Certo. Ecco, se si calma un attimo, volevo parlarti però di classifica. Di classifica, esatto. Non vedevo l'ora. Non la classifica del campionato di calcio, dove peraltro salutiamo, mi risulta che ci sia stessa capolista della settimana scorsa. È vero. Ecco. Immagina la classifica della qualità della vita, caro Alessandro, che oggi trovi sul Sole 24 Ore. Come no? Allora vince Bolzano, ma Milano al secondo posto, attenzione, cala diverse posizioni e si mette sul podio. Poi seguita, incalzata da Trento, Bolzano e Trento sono un po' abituate, diciamo un po' come l'Inter, a stare in alto, non scendono mai nelle divisioni minori. volevo segnalarti queste 8 pagine di qualità della vita, ma anche la qualità della vita sul sito del Sole 24 Ore, dove puoi anche personalizzare, cioè rivedere i parametri a tuo piacimento e magari scoprire che il Milan arriva davanti. No, scusami, che ci sono pesi, possono essere pesi diversi. Poi ti ricordo che domani con il Sole 24 Ore cominciamo il Salva Risparmio. Bene. Una serie di puntate per investire informati, una specie di manuale, per dir così, di educazione finanziaria. Quindi stai attento, segui anche domani il Sole 24 Ore, poi te lo ricorderò come si deve domani mattina. Sei pronto per la Vorunta Ridiscrasure? Come no? Angelino è un po' che non si fa vivo. Volevo dirgli che oggi sul Sole 24 Ore parliamo anche di Vorunta Ridiscrasure, perché entro la fine dell'anno bisogna completare appunto le istanze e quindi c'è un bel da fare, come scoprirai tu e anche Angelino leggendo religiosamente le pagine di norme e tributi. Volunda ridiscrasciur, che cavolo ordini! Ecco. Vedi. Caro Angelino, la Volunda ridiscrasciur è un mistero senza fine bello, come avrebbe detto il poeta. Invece ti voglio segnalare che ci stiamo perdendo 4,32 miliardi, non è che li hai lì tu, in quel pasticcio, quel disordine dei giornali. Vedo qua. Neanche due neanche euro, uno spaccio, come sempre. Neanche i due eurini, vabbè. Niente. No, sono i fondi UE, come scoprirai oggi sul Sole 24 Ore, riferiamo che appunto deve partire questa agenzia per la coesione, che dovrebbe permetterci di non perdere più fondi UE, però intanto ce ne abbiamo 4 miliardi e spiccioli così che si stanno volatilizzando, speriamo nell'ultimo sprint come al solito. Oh, parliamo naturalmente anche di welfare aziendale, a proposito di legge di stabilità, sai che la stabilità è prossima oramai. Sì, come no. Sta per concludere, lo vedi anche sul Sole 24 Ore. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, mi pare che sia arrivato il momento, non so se devi mandare il segnale orario, devi mandare altre. No, però no. Devo dire che molti ancora ci dicono sono in ritardo, insomma ormai il nostro Maurito non Icardi, Maurito Meazza, cronografo, è bello, insomma, ti piace. Bene, Maurito? Allora lanceremo magari una, non so, sponsorizzeremo degli orologi, faremo delle sveglie. Come si conviene a un giornalista che rispetta il codice deontologico. Naturalmente sì. Delle sveglie pensavo, perché così ce le mettiamo al collo tu e io e completiamo la nostra trasformazione. Ottimo. Va bene, tutto ciò premesso, leggi Sole 24 Ore, Alessandro, sempre, se ti fa bene leggi sempre. Soprattutto Norme e Tributi, mi raccomando. Religiosamente e soprattutto, e come sempre, traffico! Alessandro Milan, il Rossello Brescio dell'informazione! Ah, sì, vogliamo Rossella Brescia al Parlamento alle 6.30 prima che sia Natale, eh? Questa è ufficiale, una richiesta ufficiale già partita, cari ascoltatori, e speriamo ovviamente di esaudirla. Allora, per chiudere la questione della politica interna, c'è anche il centrodestra in subbuglio, lo sappiamo, Berlusconi che dice punto andare a scendere in campo, siamo sopra il PD, ma a parte questo ottimismo c'è un centrodestra che ancora ha visto ieri Verdini andare in TV da Lucia Annunziata a dire in pratica molti altri abbandoneranno Forza Italia e verranno da me, e quindi il centrodestra è anche alle prese con questa crisi identitaria. La prossima potrebbe essere Renata Polverini, intervistata da Tommaso Ciriaco su Repubblica, dice effettivamente in Forza Italia sembra tutto finito, sono molto frustrata. In Forza Italia abbiamo offerto uno spettacolo indecoroso e guardo a Verdini. Dunque, Renata Polverini potrebbe essere la prossima che abbandona Forza Italia per Verdini. Ma guardiamo ad orizzonti più ampi. In Spagna molti giornali raccontano quello che sta succedendo alle elezioni politiche. Sta succedendo che in pratica non c'è una maggioranza certa, nel senso che è vero che ha vinto Mariano Rajoy con il 28,7%, Alleanza Popolare, però c'è un 22% di Sanchez e quindi dei socialisti, c'è un 20,6% di Iglesias, dunque Podemos. E questa è una situazione che comporta che non ci sia una maggioranza certa. Ora, chi vince, e cioè Rajoy, le elezioni, ha diritto a cercare di formare un governo, ma ce la farà? Ormai il bipartitismo evidentemente in Spagna non c'è più popolare e socialisti, ma c'è una terza forza, forse una quarta forza, e quindi la remontada di Iglesias scombina un po' i piani, e bisognerà capire, ora saranno analisi per cercare di capire che cosa succederà. L'Europa, scrive il Corriere della Sera, punta a una sorta di grande patto tra socialisti e Partito Popolare, quindi sarebbe una cosa molto molto nuova, inedita. Di solito rivali, i due grandi rivali della politica, che potrebbero unirsi per isolare Podemos. Sta di fatto che ovviamente si capirà e si dovrà capire nei prossimi giorni che succederà per la formazione di un eventuale governo. Sempre per quel che riguarda la politica internazionale, tra l'altro oggi con Oscar Giannino parleremo di Iraq, perché sapete che i militari italiani dovrebbero tornare in Iraq, 450 di loro, a Mosul, al nord dell'Iraq, per proteggere una diga, e dunque insomma cerchiamo di ampliare un po' anche i nostri orizzonti, oggi lo racconteremo. Ma sempre per parlare di politica internazionale, c'è stato questo episodio di cronaca con un blitz a Damasco che viene attribuito agli israeliani e l'uccisione di un leader Hezbollah. Si tratta di Samir Kuntar, che nel 1979 a 16 anni sbarcò sulla spiaggia di Nahariya nel nord di Israele con tre terroristi del Fronte di Liberazione della Palestina, uccisero due poliziotti, presero una famiglia in ostaggio ammazzando il padre e la figlia. E tra l'altro Davide Frattini racconta a pagina 15, uccise in maniera brutale, soprattutto il padre Deni Aran, col calcio del fucile, poi uccisero la piccola Einat. Per questo, questo simpatico signore Samir Kuntar si è fatto diversi anni di carcere in Israele, poi fu rilasciato perché nel 2008 il governo Olmert decise di scambiare Samir Kuntar per i corpi di due militari israeliani colpiti in un'imboscata all'inizio dello scontro con l'Hezbollah due anni prima. Ora, ieri, un missile ha centrato il palazzo dove Samir Kuntar stava a Damasco. Le accuse sono subito a quello che viene definito il nemico sionista da parte di Hezbollah, e dunque l'accusa a Israele, ovviamente da Gerusalemme nessuno commenta ufficialmente, anche se il ministro della giustizia dice: sono felice della notizia, era un feroce terrorista. Kuntar, il leader Hezbollah ucciso da un missile israeliano, è il titolo di questa storia sul Corriere, ma c'è un po' ovunque, anche sulla Stampa e su Repubblica. A proposito di cosa succede all'estero, sapete cosa succede in Norvegia? In Norvegia ci sono tanti migranti e si sono posti la questione così. Ma anche in Baviera lo fanno. Cosa può pensare, come può reagire un uomo che ha sempre visto la madre o la fidanzata circolare col velo e ora si trova di fronte a una ragazza in calzoncini che gli sorride in discoteca? E ponendo questa domanda al Parlamento danese, di fronte a una statistica ufficiale, cioè fra gli uomini recentemente immigrati di stretta osservanza musulmana, la possibilità che venga commesso uno stupro o un qualunque abuso contro una donna è di tre volte più alta che tra i cittadini danesi, allora si sono inventati dei corsi per i migranti. Guarda che la donna non è obbligata a fare sesso. Guarda che qui vige una legge che è svincolata dalla religione. Insomma, i corsi per i migranti. Per alcuni sono cose giuste, è nato il dibattito, soprattutto in Danimarca, per altri è una discriminazione nei confronti di queste persone. In ogni caso, siamo alla Carta Costa, siamo all'articolo più inutile scovato sui giornali. Bambini, chiudete un attimo le orecchie. Genitori, girate, devo raccontare una cosa di Babbo Natale. L'ho fatto anche settimana scorsa. Devo dire una cosa importante su Babbo Natale. Cari genitori, state portando i bambini a scuola. Terzo e ultimo annuncio. Devo dire una cosa su Babbo Natale. Potete girare un attimo. Comunque, c'è una ricercatrice che ha speso del tempo, forse anche del denaro, sicuramente un pizzico di intelligenza, per capire come diavolo faccia Babbo Natale in una sola notte a portare a 366 milioni di case i regali, percorrendo un totale di 7,5 chilometri. Dovrebbe viaggiare alla velocità di 156.579 chilometri all'ora. Questa ricercatrice si chiama Sharon George e La Stampa gli ha dedicato una pagina. Babbo Natale, questione di fisica, il mito alla prova della scienza. Come diavolo farà ad andare così veloce Babbo Natale, mamma mia? Ma chi se ne frega!